Lasciami sola, tra suoni e flora. Lasciami lacrime, rimpianti, le stelle e l'aurora. Lasciami il freddo di una notte, un riparo tra grotte. Le scarpe dalle suole rotte, poi passi le nocche rosse. Cercavo spazio tra i volti di molti. Gli sguardi più accorti, più falsi, più sporchi. Più morti, più colti, più tondi, più stolti. Mi han dato tappi e guanti, zittito, emozioni forti. Eppure io sentivo, eppure io soffrivo. Eppure il vento sussurrava, eppure non capivo. Eppure dentro vi era un mondo che in pugno brandivo. Eppure il volto era scalfito, lo sguardo più schivo. Eppure, eppure, cercavo cure. Credersi pazzi in questo mondo, tra le anime oscure. Eppure, non convincersene in fondo. Le paure forse perdono se scegli che vuoi andargli incontro. Contro prospettive prestabilite, contro i conti con calcolatrice. Più matrice, meno attrice, meno macchinosa, meno forte. Togliersi le maschere, guardarsi andare oltre. Sui palmi, con gli anni, sono cambiati i segni. Gli affanni, gli sbagli, forse sono sempre quelli. Ma cresci se scegli di tenere i disegni e cambiare i contorni, rinnovare gli interni. Ma non mi fermo più, tu non mi vedi. La mia mente che si libra su a 100.000 piedi, credimi. Più tremi, più poi temi di cadere giù. Ma mentre sono in volo, le mie mani non tremano più. Un'altra goccia cade sul mio volto e pare si sia sciolto il male. E il cielo nutre il mondo con linfa vitale. Ho bendato gli occhi, ma mai smesso di sognare. Il giorno in cui li avrei riaperti, col coraggio per guardare.